Continuano le trasmissioni in diretta su Radio Blackout, siete all'ascolto di Interferenze che oggi è iniziata con un po' di ritardo. I microfoni quest'oggi Daniela e Ilaria vi terranno compagnia per un'oretta circa. Dopo Drink and Fight, che quest'oggi ha visto la presenza di numerosi ospiti, è una puntata un po' Balkan, così per cambiare un po'. E quindi vi lasciamo i contatti per cominciare la puntata, i soliti numeri di telefono di Radio Blackout per intervenire in diretta, mandare messaggini, fare squillini, insomma quello che volete, sono lo 011 2495 669 per il telefono fisso e il 346 6673 263 per i messaggini sul cellulare. Radio Blackout si ascolta come sempre sulle libere frequenze sulle terre torinese sui 105-250, mentre da fuori Torino si può ascoltare in streaming sul sito www.radioblackout.org. E oggi andremo a presentarvi un gruppo che si chiama Bel Rouge, un gruppo inglese che è nato nel 2005. Diciamo sono un gruppo che fa pezzi che mischiano il trip hop, il soul e la musica elettronica. Ve ne parleremo meglio durante la puntata, adesso vi mandiamo un pezzo per scaldarci un po'. Buon ascolto. E questa è Northern Girls. Partiamo con il sommario di oggi. Questa domenica facciamo come al solito un attimo di rassegna stampa per quanto riguarda gli eventi. Nel particolare questa domenica ci concentreremo sul cosiddetto Vicino Oriente, Medio Oriente, quindi notizie dalla Palestina e notizie dal mondo arabo in generale. E per la rubrica Siti Amici e Blog Amici andremo a presentarvi il lavoro del blog Smascheramenti. Faremo una diretta di approfondimento con loro in cui ci presenteranno un po' di che cosa si occupano e faremo anche un focus su un'iniziativa che hanno messo in campo questa settimana che ci sembra interessante proporvi. E poi chiuderemo insomma raccontandovi un po' le iniziative di questa settimana a venire, iniziative di cui abbiamo già parlato le settimane scorse, quindi il proseguimento degli appuntamenti in università e insomma aggiornamenti nuovi sull'appuntamento in Val di Susa la settimana prossima. Continuiamo sempre con i Ben Rush, questo è sempre dal loro primo album come il pezzo precedente, Bump. Something's up with you, don't know what it is. You've not always been open, but now you're closing in. You keep me guessing, you keep me hanging. I can't get what you said, is it what you really want? I never thought I'd be one to step in. Interrompiamo un secondo il pezzo musicale per leggervi un messaggio che ci è arrivato adesso, che segnala la presenza di polizia verso Villa Ardora, quindi chiunque fosse in quella zona sappia che c'è questo posto di blocco. You got me wanna find you out. Yeah, how you got your hold on me? cominciamo con la rassegna stampa di oggi. La rassegna stampa parte da un articolo che troviamo su Repubblica, un articolo che riguarda i social network e le rivolte del mondo arabo. E questo argomento sicuramente ha moltissimi punti di vista, moltissime riflessioni che porta a fare, ma in particolare questa polemica che è sorta questa settimana parla di una campagna messa in atto da alcune donne del mondo arabo in cui le protagoniste, ma anche gli uomini solidali, si fotografavano per partecipare a questa campagna Io sto con le donne arabe, perché facevano una foto con una scritta in varie lingue spiegando il perché della loro partecipazione, perché stanno con le donne arabe, eccetera. E insomma, la questione che è sorta riguardava una foto di una ragazza che si è fotografata a viso scoperto, a capo scoperto, e che la cui foto, il bigliettino nella foto recita: io sto per i diritti delle donne arabe, perché per 20 anni non ho potuto sentire il vento tra i capelli. E sicuramente la frase è provocatoria, piena di rabbia, piena di forza, ma la questione è sorta perché gli amministratori di Facebook hanno cancellato sia questa foto, che ha bloccato gli account delle persone che gestivano la pagina, rispondendo a delle denunce da parte di non si sa bene chi, insomma, probabilmente altri utenti fondamentalisti uomini o insomma quello che è del mondo arabo, e quindi insomma il fatto che riguardo alla censura della libertà di espressione Facebook sia sempre la prima a mettersi in campo, insomma, ad asservirsi a tutte quelle che sono le sensibilità particolari dei religiosi di turno, insomma, porta un pochino a fare una riflessione su questo, insomma, non sono riflessioni che ci sono nuove sull'uso degli strumenti dei social network, ma in particolare questa è una storia a lieto fine, perché insomma, dopo una serie abbastanza grossa di proteste, di proteste via email, ma anche di denunce su organi di stampa, i capi gestori di Facebook si sono visti costretti a tornare indietro su questa loro decisione, riaprendo la pagina, riattivando gli account, rimettendo visibile questa fotografia che sicuramente non ha nulla di scandaloso, ma tutto di molto dignitoso e pieno di giusta rabbia. E l'aspetto forse anche da sottolineare e che sottolineano le donne che gestivano questo profilo e questa pagina in rete è proprio il fatto che Facebook, quando i loro curatori si sono trovati a dare spiegazioni pubbliche, hanno inizialmente in maniera goffa tentato di negare la politicità della questione, dicendo di fatto si è trattato di un errore, non voleva essere un tentativo di censura. Chiaramente queste argomentazioni sono appunto estremamente goffe, per cui sono state sottolineate e rispedite al mittente per quello che sono, cioè insomma un po' ridicole. Collegato a questa vicenda forse viene anche appunto immediato pensare alla vicenda IKEA, di cui in questi giorni si sta parlando molto in rete. IKEA, che è stata diciamo alla ribalta delle cronache per il trattamento riservato ai lavoratori delle cooperative di facchinaggio, e questa insomma loro trattamento ha fatto sì che si scatenassero diverse proteste con ampio risalto, come tutti quanti abbiamo potuto leggere questa settimana nei vari media. E diciamo che loro loro parallelamente avevano fatto partire una campagna che si chiama Spazio al Cambiamento, in cui invitavano i clienti a scrivere sul loro sito, dando suggerimenti rispetto ai prodotti, rispetto al marchio IKEA e quant'altro. E spontaneamente in rete è partita un'azione di deturnamento di questa campagna, e sono state tantissime i messaggi Twitter ad arrivare sul loro sito, in cui appunto si scriveva che cosa si pensava di IKEA, del trattamento che aveva riservato a questi lavoratori. Talmente è stata ampia la portata della protesta che IKEA ha dovuto chiudere questo sito Spazio al Cambiamento, e l'ha fatto in maniera anche qui estremamente goffa, nascondendosi dietro un dito e dicendo di essere stata vittima di un attacco hacker che di fatto non si è mai verificato. Quindi questa bugia pietosa è stata smascherata, però di fatto loro sono stati costretti a chiudere questo sito. E secondo noi, insomma, questo è un esempio del fatto che anche la rete, seppur appunto non spazio liberato, offre comunque delle possibilità per far sentire la propria voce, per ribaltare un attimo quelli che sono i rapporti di forza normalmente vigenti in questo spazio. Sì, insomma, l'approfondimento era dovuto, perché se da un lato non è che Facebook abbia concesso libertà alle donne che gestivano la pagina di cui riferiamo prima, sicuramente l'uso degli strumenti e l'uso consapevole degli strumenti social network e media in generale può solo passare attraverso una partecipazione diretta, come nel caso appunto dell'intervento dei lavoratori e dei solidali IKEA, come nel caso appunto della protesta delle donne che gestivano la pagina Facebook. Continuiamo con l'ascolto dei Berrouche, che hanno 5 album all'attivo, l'ultimo uscito da pochissimo. Il pezzo che andiamo a ascoltare adesso, che si chiama Clockworking, è un pezzo tratto dal loro quarto album di 2 anni fa, e buon ascolto. La dedichiamo ai ragazzi di Drink and Fight, che in questo momento ci hanno portato una graditissima tazza di caffè. Buon ascolto. Yeah. 16.36, siete sempre all'ascolto di Interferenze in onda su Radio Blackout. Ci segnalano ancora la presenza di poliziotti sulla statale 24 all'altezza di Villardora, però in direzione Torino. Continuiamo con la rassegna stampa, come vi avevo detto in apertura. Passiamo alla Palestina, una piccola notizia così che può aiutare, insomma, per dare piccole note di speranza nell'immaginario della lotta palestinese. In questo caso si parla di una ragazzina di 11 anni che è stata più volte ripresa e fotografata anche dai media occidentali nell'atto di contrapporsi anche fisicamente, insomma, nei posti di blocco messi in campo per le strade della striscia di Gaza dai soldati israeliani. E insomma, la notizia è che la ragazza, che si chiama Yad Tamimi, è stata ferita in maniera non grave durante degli scontri da un proiettile rivestito di gomma, questi simpatici proiettili rivestiti di gomma che sono in dotazione dell'esercito israeliano, scusate, come di molti eserciti europei. Per fortuna in Italia non sono ancora arrivati, ma insomma non ci giurerei che prima o poi non riescano a farseli comprare i nostri simpatici amici della Celere. E quindi insomma la ragazzina comunque, insomma, non è in condizioni gravi. La sua storia è una storia, insomma, abbastanza comune nella zona palestinese. Il padre della ragazza, Bassem Tamimi, è in questo momento è un prigioniero dell'esercito israeliano, e sicuramente questo non può che influire sulla rabbia di questa ragazza, che insomma è diventata un pochino anche il simbolo del tipo di contrapposizione fatta di armi e di mani nude tra l'esercito israeliano e i palestinesi. E insomma, chiudiamo la rassegna stampa con una notizia di stamattina, una notizia che invece viene dalla vicina Europa, e insomma la notizia che il Fatto Quotidiano ci riporta è che un gruppo di un'associazione di medici ginecologi e una ONG internazionale hanno fatto ricorso alla Commissione Europea, il Consiglio d'Europa, scusate, per l'applicazione della legge 194 in Italia, dichiarando che il fatto che esistano moltissimi obiettori di coscienza in quantità veramente inimmaginabile, che sfiora l'80-90% in certe zone d'Italia, fa sì che la legge 194 sull'interruzione di gravidanza non possa praticamente essere applicata, e quindi i diritti delle donne non vengano garantiti in Italia. Non è una grandissima novità, la novità è appunto che questo ricorso è stato accolto come inizio di procedimento dalla Commissione Europea, e quindi vedremo quale sarà eventualmente la sentenza, insomma, senza sperare troppo nei cambiamenti che vengono da giudici e legislatori vari. Però insomma è interessante che almeno si siano accorti del fatto che la quantità, la percentuale di medici obiettori può forse essere un problema per poter portare avanti un'interruzione di gravidanza. E insomma, la prima parte della trasmissione, quella più dedicata alla rassegna per questa settimana, termina qui. Vi lasciamo in compagnia di un pezzo musicale sempre dei Berrush, tratto da Turntable Soul Music, e dopo avremo la diretta con un compagno di Bologna che ci parlerà del progetto Smascheramenti. Buon ascolto. You may never know me, so I'm the best you're gonna need if I'm gonna get there. Eccoci qua in diretta, come dicevamo prima, partiamo col presentarvi un progetto collettivo, un collettivo appunto, collettivo di Bologna che insomma si sta in questo momento facendo largo sia per quanto riguarda gli eventi, le iniziative che porta avanti, sia per quanto riguarda le produzioni, gli iscritti sul loro blog che diffondono. E insomma, lasciamo subito la parola a Renato del Laboratorio Smascheramenti di Bologna, che ci racconta insomma come è nato il suo collettivo, e poi parleremo delle loro ultime iniziative. Ciao Renato. Ciao a tutti e tutte. Ciao. Allora, il laboratorio è nato nel 2008, è nato come laboratorio tematico in qualche modo, come emanazione, diciamo, del collettivo precedente, che era Antagonismo Gay, e nasce come laboratorio sul maschile, sul desiderio maschile del maschile. In qualche modo nel 2008 c'era stata un ritorno di mobilitazione dalla manifestazione del 2007 separatista contro la violenza maschile. C'era stata comunque un'interpellazione che invitava anche i soggetti minoritari a posizionarsi, e da quel momento insomma noi abbiamo cominciato a lavorare su quella che è la produzione di mascolinità egemonica a livello sessuale, o come modello unico di soggettività a cui anche tutte le altre si devono comunque in qualche modo rapportare, e come anche forma che informa le forme della politica, delle relazioni, eccetera. E niente, è un laboratorio misto, ci stanno misto sia gay, etero, donne, bio, lesbiche, eccetera, eccetera. E niente, incrocia tutta una serie di percorsi e di sguardi rispetto alla costruzione dei generi, ecco, fondamentalmente. Ciao, io sono Daniela, volevo chiederti una cosa. Abbiamo la pagina aperta sul vostro blog, che ricordiamo smascheramenti.noblogs.org, e vediamo che avete tenuto un incontro sul pinkwashing. Siccome anche noi la scorsa settimana abbiamo un po' introdotto la questione anche relativamente ai fatti avvenuti al Cassero, volevamo chiederti un po' come è andata, come avete organizzato questa iniziativa, e se ti va di parlarcene. Certo, vi dico, ovviamente noi su queste questioni ci siamo da molto tempo, nel senso che già come Antagonismo Gay avevamo fatto parte di Queer for Peace, quindi avevamo avuto una serie di relazioni con il movimento queer palestinese, con degli scambi, dei viaggi nei territori, eccetera. Quindi seguivamo già questa cosa. E una nostra compagna, che è stata per un periodo, prima era in Palestina, adesso è un periodo che sta in Libano lavorando per delle ONG, ci aveva proposto di fare questa presentazione. Dopodiché è successo appunto, ci siamo accorte in qualche modo che quest'anno il festival Gender Band, che comunque è uno dei principali festival nel nostro contesto di cultura queer transgender, era fatto con il contributo dell'ambasciata di Israele, ufficio cultura. Ovviamente rispetto a questa cosa abbiamo scelto di riaprire la questione del pinkwashing, di fare un momento cittadino, che poi si è rivelato anche un momento più ampio, perché effettivamente si sono poi presentati su una serie di gruppi e abbiamo anche in qualche modo capito che ci stanno succedendo nel nostro paese tutta una serie di tentativi di posizionamento promossi dallo Stato di Israele all'interno del movimento LGBTQ, che fanno parte di questa strategia appunto, che è quella del pinkwashing, cioè comunque di presentare l'immagine di Israele come paese, come mecca in qualche modo LGBT, del turismo e della vivibilità, in modo anche da costruirsi un'immagine appunto di democrazia, di unica democrazia da difendere in mezzo a quella che sarebbe la barbarie maschilista e omofoba dei paesi arabi, o altrimenti detti musulmani, piuttosto che ovviamente semplificando moltissimo rispetto alla complessità del mondo arabo, e negando l'esistenza stessa delle delle soggettività queer in Medio Oriente o nel mondo, in Palestina ad esempio, piuttosto che nei paesi limitrofi. Questa cosa sia molto importante, penso che da ieri parta anche un percorso di messa in rete, di mappatura. C'erano le baresi, le cime di queer che riportavano appunto una serie di situazioni per cui si sta promuovendo una presenza significativa filo-sionista in qualche modo rispetto ad alcune associazioni LGBT a Bari. C'è il caso del Gay Village di Padova, dove da anni lo Stato di Israele fa uno stand, e io chiedo come mai uno Stato, e in particolare quello Stato, sente il bisogno di promuoversi rispetto alla comunità LGBTQ. Altre vicende sono note, l'Europride di 2 anni fa, in cui c'erano stand in cui si promuovevano vacanze gay friendly in Israele. Tutto questo fa parte ovviamente di una strategia ultra finanziata e sostenuta dal Ministero del Turismo, dal Ministero degli Interni, dello Stato di Israele, per riposizionare il brand Israel rispetto al mondo queer, e per in qualche modo spezzare quella che potrebbe essere invece una solidarietà tra lotte, come sono lotte di liberazione, quelle LGBTQ, come quella del popolo palestinese, come quella dei queer palestinesi. Quindi sì, un'iniziativa molto positiva che penso che apra anche a delle prospettive più ampie. Certo, sì, credo che sia anche importante fare non solo un discorso di difesa rispetto agli attacchi d'immagine che porta avanti Israele nei confronti dei barbari arabi, piuttosto che no, di questo tipo di washing, appunto, di lavarsi la coscienza con i diritti di qualcun altro mentre si ammazzano i palestinesi, ma la roba che credo che sia anche importante in un'ottica anche di movimento italiano, no? Di quella di fare anche un discorso riguardo a chi riceve queste immagini di Israele, insomma, in particolare appunto a tutti quegli eventi e momenti della vita della cultura LGBT che invece accolgono gli stand di Israele, piuttosto che, insomma, a me viene in mente il fatto che si stiano mettendo in campo negli ultimi tempi purtroppo anche manovre di omonazionalismo in Italia, no? Quindi l'accettazione dell'identità LGBT passa solo attraverso una nazionalizzazione di questi soggetti. A me vengono in mente questi manifesti che erano usciti qualche tempo fa di Arcigay su la tolleranza prodotto italiano, insomma, queste cose. Certo, qua. Infatti se ne è parlato molto ieri sera, perché ovviamente lo spunto per noi era questo, però noi sappiamo ovviamente che il pinkwashing di Israele è stato un paradigma di quello che è l'omonazionalismo, e che quindi è una questione molto più ampia, e che credo noi, insomma, in qualche modo sembrava più una questione teorica inizialmente, ecco, l'omonazionalismo, ci interroghiamo da alcuni anni su quanto il caso italiano possa essere letto attraverso questa categoria. Io credo che non ci siamo dentro completamente. Ovviamente lo Stato italiano non può in qualche modo riappropriarsi di una serie di discorsi sui diritti LGBT, perché ce ne stanno pochi di diritti, ecco. Ma molti soggetti stanno riappropriandosi di un certo discorso, ma penso anche al discorso sull'omofobia, perché se non si fa sul positivo si fa sul negativo, no? E quindi tutto un certo discorso anti-omofobico è stato ampiamente riappropriato e manipolato. Ricordiamo che in questo paese è avvenuto dopo il dialogo di alcuni esponenti LGBT con Casa Pound a Roma, sono avvenute manifestazioni contro la violenza in cui hanno partecipato associazioni LGBT, Casa Pound, il sindaco Alemanno, e sono passati pochi anni. Noi avevamo una certa titubanza anche a fare questa iniziativa come attacco diretto, perché è vero, bisogna anche chiedere conto non solo del perché Israele investe sui festival, ma perché i festival accettano, perché i soggetti LGBT accettano ad esempio questi finanziamenti. Vi ricordo che a Bologna c'era stato, i giorni precedenti appunto al festival, un attacco di Forza Nuova al fatto che le istituzioni sostenessero il festival Gender Band, e la risposta di Arcigay è stata ad esempio perché fate questi attacchi meschini, attaccate di striscioni, di insulti di notte, venite allo scoperto, parliamo pubblicamente. Ora, anche qui, secondo me la questione è sempre una, nella misura in cui tutta una serie di rivendicazioni si riducono a rivendicazioni di diritti rispetto al piano della sessualità o dell'affettività, in una cornice nazionale siamo già dentro l'omonazionalismo. Noi pensiamo a una soggettività LGBT che è multidimensionale, che è intersezionale, che lotta su vari piani di classe, in qualche modo in una prospettiva transnazionale, e quindi non possiamo accettare che ci siano delle rivendicazioni in una cornice nazionalista o nazionale, perché già questo presuppone lo scambio omonazionalista, che è appunto ti riconosco cittadinanza, ma dentro la cornice di uno Stato-nazione, quindi accettando il razzismo e accettando tutta una serie di altri dispositivi che poi opprimono altri soggetti. Questo quindi è un portato fondamentale anche per dislocare le lotte queer appunto rispetto a questa deriva spoliticizzante e completamente integrazionista che ormai non ci sta portando da nessuna parte, appunto, no? Quindi in questo senso io sono molto soddisfatto e ho sentito una grossa forza in questo, c'erano i torinesi, c'erano le romane, tutta una serie di soggetti che si stanno muovendo in questa dimensione di critica all'omonazionalismo, e penso che su questo potremmo in qualche modo anche ripensare quello che è successo in Italia negli ultimi anni. Certo, assolutamente, completamente d'accordo. Continueremo a guardare con interesse alle iniziative a questo riguardo, insomma, anche partecipare per quel che ci è possibile come laboratorio. Insomma, ti ringraziamo moltissimo e teniamo aperti gli occhi e le orecchie rispetto a questi argomenti, e ci sentiamo presto. Grazie a voi. A ciao, presto. Ciao. Continuiamo con l'ascolto dei Ben Rouge, questo è Bobby. 11.59, Interferenze sta per volgere al termine, ci prendiamo qualche minuto per andarvi a ricordare l'intensa settimana di mobilitazione che inizia domani in Val Susa con la visita sgraditissima del ministro Cancellieri, per cui invitiamo tutte e tutti a salire in valle per darle l'accoglienza che merita. E sempre questa settimana, mercoledì sera, si terrà alla Credenza un apericena di autofinanziamento per la costruzione della Due Giorni, che è organizzata da Donne in Movimento contro la violenza sulle donne e la violenza sulla terra, che si terrà il 17 e il 18 novembre prossimi. E due giorni che abbiamo già presentato qui dai microfoni di Interferenze la scorsa settimana facendo una diretta con Ermelinda, e cui sicuramente seguirà la prossima settimana una particolare attenzione, visto che si starà svolgendo proprio la domenica, precisamente la domenica.